Com'era più? Alzo la testa, che fai, ti siedi? Ti ribalto prendendoti per i piedi con un mega fat rap che ti spazza, ammazza. Tiro a pigliarmi tutta la piazza, la mia via, ti dà il via e ti abbandona dopo due passi. La mia via, ora suona perché sti ragazzi sono cresciuti, cocciuti e troppo gradassi. Ma ti sono piaciuti perché vivono i tuoi stessi scazzi. Siamo tra i tuoi palazzi. Ehi fra, dimmi un po' che faccia ho. Giro coi Levi, la cinta, cinesi, le tiger. Dimmi un po' cos'è l'hip hop. I believe I can fly con Marchelli. Strong, ma paura di schiantarmi come The Gallardon. I marcioni della mia città fanno succhicchie, bottiglie, stagnole, bombe. Come no, no, noia che foia. Primo modello la roia, che storia. A sto giro sta noia, ci butta tutti quanti sull'astrico. Come no, no, noia che foia. Primo modello la roia, che storia. A sto giro sta noia, ci butta tutti quanti sull'astrico. Ma che cazzo fai? Schiaccia stop, che questa roba è una merda. Tutta colpa della noia, perché ci perdiamo troppo tempo incazzati. Ma ci fumiamo le canne, no? E come no? E come no? E come no? E come no? E come no? No, noia che foia. Il modello la roia, che storia. A sto giro sta noia, ci butta tutti quanti sull'astrico. Come no? No, noia che foia. Che storia, sto giro sta noia, ci butta tutti quanti sull'astrico.